Rientravamo sempre presto dalle nostre passeggiate per poter far visita alla zia Léonie prima di cena. All'inizio della stagione, in cui le giornate erano corte, quando arrivavamo in Rue de Saint-Esprit, c'era ancora un riflesso del tramonto sui vetri della casa e una striscia di porpora in fondo ai boschi del Calvario che più lontano si rifletteva nello stagno. Un rosso che, accompagnato spesso da un freddo molto pungente, si associava nella mia mente al rosso del fuoco sopra il quale arrostiva il pollo che, al piacere poetico della passeggiata, avrebbe fatto seguire per me il piacere della gola, del caldo e del riposo. D'estate, invece, quando rientravamo, il sole non era ancora tramontato e durante la visita a zia Léonie la sua luce, che si abbassava e lambiva la finestra, era trattenuta entro le grandi tende e i loro bracciali, divisa, ramificata, filtrata, e incrostando di piccoli frammenti d'oro il legno di cedro del comò, illuminava obliquamente la stanza con la delicatezza che assume nel sottobosco. Ma a certi giorni assai rari, al nostro rientro il comò aveva perduto da tempo i suoi effimeri intarsi. Quando arrivavamo in Rue de Saint-Esprit, più nessun riflesso di tramonto si allungava sui vetri, e lo stagno ai piedi del Calvario aveva perduto il suo rossore. A volte era già colore dell'opale, ed era attraversato per intero da un lungo raggio di luna, sempre più dilatato e screziato da tutte le increspature dell'acqua. Allora, giunti in prossimità della casa, scorgevamo una sagoma sulla soglia della porta e la mamma mi diceva: «Mio Dio, ecco Françoise di vedetta, tua zia sarà in ansia. Abbiamo fatto troppo tardi». E senza perdere tempo a spogliarci, salivamo svelti da zia Léonie per rassicurarla e dimostrarle che, contrariamente a quello che già si immaginava, non c'era successo niente. Ma eravamo andati dalla parte di Guermantes e, diamine, quando facevamo quella passeggiata, la zia lo sapeva, no? Che non si poteva essere mai sicuri dell'ora in cui si sarebbe tornati. «Visto, Françoise?» replicava la zia. «Non ve lo dicevo io che sarebbero andati dalla parte di Guermantes? Mio Dio, devono avere una fame! E intanto il vostro cosciotto si sarà tutto asciugato a furia di aspettare, ma è questa l'ora di tornare? Lo sfido io, siete andati dalla parte di Guermantes?» «Ma credevo lo sapeste, Léonie», diceva la mamma. «Pensavo che Françoise ci avesse visti uscire dalla porticina dell'orto». Infatti, nei dintorni di Combray c'erano due parti per le passeggiate, e così opposte l'una all'altra, che in effetti si usciva di casa da una porta diversa, a seconda che si volesse andare da una parte o dall'altra. La parte di Meseglise-Lavinaise, che chiamavamo anche la parte di Swann, perché per andarci si passava davanti alla tenuta di Swann, e la parte di Guermantes. Di Meseglise-Lavinaise, per la verità, io non ho mai conosciuto che la parte e certi forestieri che venivano la domenica a passeggiare a Combray, gente che questa volta la zia stessa e noi tutti non conoscevamo affatto. E da questo indizio ritenevamo quindi persone che saranno venute da Meseglise. Quanto a Guermantes, un giorno ne avrei saputo molto di più, ma solo molto più tardi. E per tutta la mia adolescenza, se Meseglise era per me, per quanto lontano si andasse, qualcosa di inaccessibile come l'orizzonte, sottratto alla vista dalle ondulazioni di un terreno che non era già più simile a quello di Combray, Guermantes invece mi è apparso sempre come il termine più ideale che reale della sua parte. Una sorta di espressione geografica astratta, come la linea dell'equatore, come il polo, come l'oriente. Allora, prendere per Guermantes per andare a Meseglise o viceversa, mi sarebbe sembrata un'espressione priva di senso, come prendere per l'est per andare a ovest. Siccome mio padre parlava sempre della parte di Meseglise come del più bel panorama di pianura che avesse mai visto, e della parte di Guermantes come del tipico paesaggio fluviale, io attribuivo a loro, concependole così come due entità, quella coesione, quell'unità che appartengono soltanto alle creazioni della nostra mente. La minima particella di ciascuna di esse mi sembrava preziosa e capace di manifestare la propria particolare superiorità, mentre, a loro confronto, prima di arrivare sul sacro suolo dell'uno o dell'altra, i percorsi puramente materiali tra i quali erano situate, come l'ideale del panorama di pianura e l'ideale del paesaggio fluviale, non meritavano di essere guardati più di quanto non lo meritino le viuzze nelle vicinanze di un teatro da parte dello spettatore appassionato di arte drammatica. Ma molto più delle distanze chilometriche, quella che interponevo fra loro era la distanza che c'era fra le due parti del mio cervello in cui le pensavo. Una di quelle distanze mentali che non fanno che allontanare, che separano e pongono su un piano diverso. E quella demarcazione era resa ancora più assoluta perché l'abitudine che avevamo di non andare mai verso le due parti nello stesso giorno, in una sola passeggiata, ma una volta la parte di Meseglise, un'altra da quella di Guermantes, le rinchiudeva per così dire lontano l'una dall'altra, inconoscibili l'una all'altra, nei vasi chiusi e non comunicanti di pomeriggi diversi. Quando volevamo andare dalla parte di Meseglise, uscivamo, non troppo presto e anche se il cielo era coperto, perché la passeggiata non era molto lunga né troppo impegnativa, come per andare in qualsiasi altro luogo, dal portone della casa della zia sui Rue de Saint-Esprit. Ricevevamo i saluti dell'armaiolo, imbucavamo le lettere nella cassetta postale, passando, dicevamo a Théodore, da parte di Françoise, che aveva finito l'olio o il caffè, e uscivamo dalla città per la strada che costeggiava la staccionata bianca del parco di Swann. Prima ancora di arrivarci, ci investiva il profumo dei suoi lilà, venuto incontro ai forestieri. Da dentro i cuoricini verdi e freschi delle loro foglie alzavano curiosi al di sopra della staccionata i loro pennacchi di piume color malva o bianche, lucenti anche all'ombra per il sole che l'aveva irrorate. Alcuni, in parte nascosti dalla casetta con le tegole, detta la casa degli arcieri dove abitava il custode, ne oltrepassavano il pinnacolo gotico con il loro minareto rosa. Le ninfe della primavera sarebbero parse volgari a confronto con quelle giovani uri che serbavano in quel giardino francese i toni vivi e puri delle miniature persiane. Malgrado il mio desiderio di abbracciare la loro vita flessuosa e attirare a me i boccoli stellati del loro capo odoroso, passavamo senza fermarci, perché i miei non mettevano più piede a Tansonville dopo il matrimonio di Swann. E per non dare l'impressione di sbirciare nel parco, invece di prendere la strada che ne costeggia il recinto e sale direttamente verso i campi, ne prendevamo un'altra che vi giungeva lo stesso, ma obliquamente, e ci faceva sbucare parecchio più in là. Un giorno il nonno disse a mio padre: «Vi ricordate ieri Swann ha detto che siccome la moglie e la figlia partivano per Reims, lui ne avrebbe approfittato per andare 24 ore a Parigi? Visto che le signore non ci sono, potremmo costeggiare il parco, ci risparmierebbe un bel tratto di strada». Sostammo un momento davanti alla staccionata. La stagione dei lilà si avvicinava alla fine. Alcuni effondevano ancora, in alti lampadari color malva, le bolle delicate dei loro fiori, ma in molte parti del fogliame, dove appena una settimana prima dilagava la loro spuma odorosa, appassiva rattrappita e annerita una schiuma vacua, arida e senza profumo. Il nonno fece notare a mio padre che cos'era rimasto immutato nell'aspetto del luogo e che cos'era cambiato dopo la passeggiata che aveva fatto con Swann padre il giorno che sua moglie era morta, e colse l'occasione per raccontare ancora una volta quella passeggiata. Davanti a noi un viale bordato di nasturzi saliva in pieno sole verso il castello. A destra, invece, il parco si estendeva pianeggiante. Uno specchio d'acqua, reso cupo dall'ombra dei grandi alberi che lo circondavano, era stato fatto scavare dai genitori di Swann, ma anche nelle sue creazioni più artificiose è pur sempre sulla natura che l'uomo interviene. Certi luoghi mantengono sempre intorno a sé il loro particolare imperio, inalberano le loro insegne immemorabili al centro di un parco, come avrebbero fatto in assenza di qualsiasi intervento umano, in una solitudine che torna ovunque a circondarli, dettata dalla necessità della loro esposizione e sovrapposta all'opera dell'uomo. Così, ai piedi del viale che dominava il laghetto artificiale, s'era formata, su due file intrecciate di miosotis e pervinche, la corona naturale, delicata e azzurra, che cinge la fronte chiaroscura delle acque, e il gladiolo, curvando le sue spade con regale abbandono, stendeva sull'eupatorio e sul ranuncolo dall'umido gambo i fiordalisi dai lembi viola e gialli del suo scettro lacustre. La partenza di Mademoiselle Swann, che privandomi della terribile opportunità di vederla apparire in un viale, di essere conosciuto e disprezzato nella piccola privilegiata che aveva per amico Bergotte e andava con lui a visitare le cattedrali, mi rendeva indifferente la visione di Tansonville, la prima volta che mi era concessa. Agli occhi del nonno e di mio padre, invece, sembrava aggiungere pregio a quella tenuta, conferirle un'attrattiva passeggera, e, come per un'escursione in montagna, l'assenza di qualsiasi nube, rendere la giornata eccezionalmente propizia a una passeggiata da quella parte. Avrei voluto che i loro calcoli fossero elusi. È un miracolo facesse apparire Mademoiselle Swann con suo padre così vicino a noi da non avere il tempo di evitarla e da essere obbligati a conoscerla. Così, quando d'un tratto scorsi sull'erba, quasi un segno della sua possibile presenza, un cestino dimenticato accanto a una canna da pesca, il cui sughero galleggiava sull'acqua, mi affrettai a deviare gli sguardi di mio padre e del nonno da un'altra parte. Ma, avendo saputo da Swann che gli era difficile assentarsi perché in quel momento aveva degli ospiti, la canna da pesca poteva appartenere a qualcuno di loro. Non si udiva alcun rumore di passi nei viali. Dividendo l'altezza di un albero imprecisato, un uccello invisibile si ingegnava a far sembrare breve la giornata, esplorava con una nota prolungata la solitudine circostante, ma ne riceveva una risposta così unanime, un'eco così raddoppiata di silenzio e di immobilità, da fermare per sempre, si sarebbe detto, l'istante che aveva cercato di far passare più in fretta. La luce cadeva così implacabile dal cielo divenuto fisso, che si sarebbe voluto sottrarsi alla sua attenzione, e l'acqua, anch'essa addormentata, di cui gli insetti tormentavano continuamente il sonno, sognando forse qualche immaginario maelstrom, aumentava il turbamento in cui mi aveva gettato la vista del galleggiante di sughero che pareva trascinato a tutta velocità sulle distese silenziose del cielo riflesso. Quasi verticale, il sughero pareva sul punto di affondare, e già mi chiedevo, senza tener conto del desiderio e del timore che avevo di conoscerla, se non avessi il dovere di avvertire Mademoiselle Swann che il pesce aveva abboccato. Quando dovetti raggiungere di corsa mio padre e mio nonno, che mi chiamavano stupiti che non li avessi seguiti sul sentiero che sale verso i campi e sul quale si erano già avviati. Lo trovai tutto ronzante del profumo dei biancospini. La siepe formava come una successione di cappelle che sparivano sotto il tappeto di fiori ammonticchiati a formare una sorta di repositorio. Sotto di loro il sole, come filtrato da una vetrata, proiettava per terra una scacchiera di luce. Il profumo si diffondeva così untuoso, così definito nella sua forma, come fosse stato davanti all'altare della Vergine. E i fiori così acconciati reggevano ognuno con aria distratta il loro scintillante bouquet di stami, sottili e raggianti nervature di stile flamboyant come quelle che in chiesa traforavano la balaustra della tribuna o le traversine della vetrata e che sbocciavano in bianco incarnato di fiori di fragola. Come sarebbero parse ingenue e paesane al confronto le rose di macchia che di lì a qualche settimana si sarebbero anch'esse arrampicate in pieno sole lungo lo stesso rustico sentiero, nella seta liscia del loro corsetto rosseggiante che un soffio di vento disperde. Ma avevo un bel restare davanti ai biancospini, a respirare, a condurre davanti al mio pensiero che non sapeva cosa farne il loro invisibile e persistente profumo, a perderlo, a ritrovarlo, a unirmi al ritmo che gettava i loro fiori qua e là con un'allegrezza giovanile e a intervalli inattesi come certi intervalli musicali. Quei fiori mi offrivano indefinitamente lo stesso incanto con una profusione inesauribile, ma senza consentirmi di approfondirlo più oltre, come quelle melodie che si possono suonare 100 volte di seguito senza penetrarne più a fondo il segreto. Me ne allontanavo un momento per poterli poi abbordare con forze più fresche. Inseguivo fin sulla scarpata, che dietro la siepe saliva in ripido pendio verso i campi, qualche papavero sperduto, qualche fiordaliso rimasto pigramente indietro, che la decoravano qua e là con i loro fiori, come nella bordura di un arazzo dove si annuncia, appena accennato, il motivo agreste che trionferà nel centro. Ancora radi, distanziati come le case sparse che annunciano già l'approssimarsi di un villaggio, mi annunciavano l'immensa distesa dove dilagano le messi, dove si accavallano le nubi, e la vista di un solo papavero che innalzava in cima al suo cordame e lasciava sferzare dal vento la sua rossa fiamma al di sopra della sua boa untuosa e nera, mi faceva battere il cuore come al viaggiatore che, scorgendo su un arenile una prima barca incagliata che un calafato sta riparando, esclama prima ancora d'averlo visto: «Il mare!». Poi tornavo davanti ai biancospini, come davanti a quei capolavori che si crede di poter meglio vedere dopo aver smesso per un momento di guardarli. Ma avevo un bel farmi schermo con le mani per non avere altro che loro sotto gli occhi. Il sentimento che risvegliavano in me restava oscuro e vago e cercava invano di liberarsi, di poter aderire ai loro fiori. Questi non mi aiutavano a chiarirlo, né potevo chiedere ad altri fiori di soddisfarlo. Allora, procurandomi la stessa gioia che si prova nel vedere un'opera del nostro pittore preferito, diversa da quelle che conosciamo, oppure se qualcuno ci conduce davanti a un quadro di cui fino a quel momento avevamo visto soltanto uno schizzo a matita, o se un brano musicale sentito solo al pianoforte ci appare poi rivestito dei colori dell'orchestra, il nonno mi chiamò e, indicandomi la siepe di Tansonville, mi disse: «Tu, che ami tanto i biancospini, guarda un po' quello spino rosa, quanto è bello!». In effetti era uno spino, ma rosa, più bello ancora dei bianchi. Anche lui sfoggiava un'acconciatura da festa, di quelle sole vere feste che sono le feste religiose, perché nessun capriccio contingente le applica, come quelle mondane, a un giorno qualsiasi che non è loro particolarmente destinato e che non ha niente di essenzialmente festivo, ma un'acconciatura ancora più ricca, perché i fiori attaccati al ramo, uno sopra l'altro, così da non lasciare alcuno spazio privo d'ornamento, come fiocchi che inghirlandino un pastorale rococò, erano colorati e quindi di una qualità superiore, secondo l'estetica di Combré, a giudicare almeno dalla lista dei prezzi della bottega sulla piazza o di Camus, dove i biscotti rosa erano più cari. Anch'io apprezzavo di più il formaggio alla crema rosa, quello su cui mi avevano permesso di schiacciare delle fragole. E quei fiori avevano scelto appunto una di quelle tinte di cosa commestibile o di tenero abbellimento di un abito per una grande festa, che nella misura in cui manifestano la ragione della loro superiorità, sono quelle che con maggiore evidenza appaiono belle agli occhi dei bambini, e per questo conservano sempre qualcosa di più vivo per loro e di più naturale delle altre tinte, anche quando avranno capito che non promettevano nulla alla loro golosità e non era stata la sarta a sceglierle. E certo, io avevo subito avvertito, come davanti agli spini bianchi ma con più meraviglia, che nei fiori quell'intenzione di festa non s'era tradotta fittiziamente attraverso un'artificiosa fabbricazione umana, ma era stata la natura a esprimerla spontaneamente, con l'ingenuità di una merciaia di paese che, nell'addobbare un repositorio, sovraccarichi l'arbusto di quelle rosette di un tono troppo tenero e di un pompadour provinciale. In cima ai rami, come tanti di quei piccoli rosai, dentro vasi avvolti in carta merlettata di cui nelle grandi feste si facevano irradiare sull'altare i tenui fuochi d'artificio, pullulavano mille bottoncini di una tinta più pallida, che schiudendosi lasciavano vedere come nel fondo di una coppa di marmo rosa dei rossi sanguigni, e tradivano più ancora dei fiori l'essenza speciale e irresistibile dello spino, che dovunque germogliasse, dovunque fiorisse, non poteva farlo che in rosa. frammisto alla siepe, ma anche diverso da questa, quanto può esserlo una fanciulla abbigliata a festa, in mezzo a persone in vestaglia che resteranno a casa, tutto pronto per il mese mariano, di cui sembrava già far parte, brillava sorridendo nella sua fresca veste rosa, l'arbusto cattolico e delizioso. La siepe lasciava intravedere all'interno del parco un viale bordato di gelsomini, di viole del pensiero e di verbene, in mezzo alle quali le violacciocche schiudevano la loro borsa fresca di un rosa odoroso e sbiadito, come quello di un cuoio antico di Cordova, mentre sulla ghiaia un lungo tubo per innaffiare verniciato di verde, srotolando le sue spire, drizzava attraverso i fori di cui era cosparso, al di sopra dei fiori e irrorando nei profumi, il ventaglio verticale e prismatico delle sue goccioline multicolori. D'un tratto mi fermai. Non potei più muovermi. Come accade quando una visione non si rivolge solo al nostro sguardo, ma esige percezioni più profonde. E si impadronisce del nostro essere per intero. Una ragazzina di un biondo rossiccio, che aveva l'aria di rientrare da una passeggiata con in mano una vanga da giardinaggio, ci guardava alzando il viso cosparso di effeli di rosa. I suoi occhi neri brillavano, e poiché allora non sapevo né mai ho saputo in seguito ridurre ai suoi elementi oggettivi una forte impressione, non avendo, come si dice, abbastanza spirito di osservazione per isolare la nozione del loro colore, per molto tempo, ogni volta che ripensavo a lei, il ricordo del loro fulgore mi si presentava subito come quello di un vivido azzurro, perché lei era bionda, di modo che, se forse non avesse avuto degli occhi così neri, cosa che colpiva tanto la prima volta che la si vedeva, non sarei stato, come fui, particolarmente innamorato dei suoi occhi azzurri. La guardai, prima con quello sguardo che non è soltanto il portavoce degli occhi, ma dalla cui finestra si sporgono tutti i sensi ansiosi, impietriti, lo sguardo che vorrebbe toccare, catturare, portarsi via il corpo che sta guardando, e con quello anche l'anima. Poi, tale era la mia paura che da un momento all'altro mio nonno e mio padre, vedendo la fanciulla, mi facessero allontanare, dicendomi di correre un poco avanti a loro, con un secondo sguardo, inconsciamente supplichevole, che cercava di costringerla a prestarmi attenzione, a conoscermi. Lei sporse in avanti e di lato le sue pupille per prendere visione di mio nonno e mio padre, e l'impressione che ne ricavò fu senza dubbio che fossimo ridicoli, perché si volse e, con aria indifferente e sdegnosa, si trasse in disparte per risparmiare al proprio volto di trovarsi nel loro campo visivo. E quando loro, continuando a camminare, senza accorgersi di lei, mi ebbero superato, lasciò scorrere i suoi sguardi per tutta la loro portata nella mia direzione, senza un'espressione particolare, senza avere l'aria di vedermi, ma con una fissità e un sorriso dissimulato che io, in base alle nozioni di buona educazione che mi avevano impartito, non potei interpretare altrimenti che come una dimostrazione di oltraggioso disprezzo. E intanto la sua mano accennava un gesto indecente al quale, se rivolto in pubblico a persona che non si conosceva, il piccolo dizionario di buona educazione che portavo dentro di me attribuiva un unico significato, quello di un'intenzione insolente. «Andiamo, Gilbert, vieni! Cosa stai facendo?» esclamò con voce penetrante e autoritaria una signora in bianco che non avevo visto, mentre a qualche distanza da lei un signore in abito di tela grezza che non conoscevo mi fissava con occhi che parevano uscirgli dalle orbite. Smettendo bruscamente di sorridere, la fanciulla prese la vanga e si allontanò senza più voltarsi dalla mia parte, con aria docile, impenetrabile e sorniona. Così mi passò accanto quel nome di Gilbert, offertomi come un talismano che forse mi avrebbe permesso di ritrovare un giorno colei di cui aveva appena fatto una persona, e che solo un istante prima non era che un'immagine incerta. Passò così, pronunciato al di sopra dei gelsomini e delle violacciocche, pungente e fresco come le gocce dell'innaffiatoio verde, impregnando, iridando la zona d'aria pura che aveva attraversato e che isolava, del mistero della vita di colei che disegnava per gli esseri fortunati che vivevano e viaggiavano con lei, dispiegando sotto il cespuglio dello spino rosa, all'altezza della mia spalla, la quintessenza della loro familiarità per me così dolorosa con lei, con l'ignoto della sua vita, in cui io non sarei mai entrato. Per un istante, mentre ci allontanavamo, il nonno mormorava: «Povero Swan, che razza di parte gli fanno fare? Lo fanno partire perché lei possa restare sola con il suo Charlie, eh? Perché lui l'ha riconosciuto. E quella bambina, trascinata in tutta questa infamia». L'impressione lasciata in me dal tono dispotico con cui la madre di Gilbert le aveva rivolto la parola, senza che lei replicasse, facendomela apparire come costretto a obbedire a qualcuno, quindi non come una creatura superiore a tutto, placò un poco la mia sofferenza, mi restituì qualche speranza e attenuò il mio amore. Ma ben presto quell'amore riprese quota dentro di me, come una reazione attraverso la quale il mio cuore umiliato voleva mettersi allo stesso livello di Gilbert o abbassare lei al suo. Io l'amavo, rimpiangevo di non aver avuto il tempo, l'impulso di offenderla, di ferirla e di costringerla a ricordarsi di me. La trovavo così bella che avrei voluto tornare sui miei passi e gridarle, alzando le spalle: «Mi trovo brutta, grottesca, ripugnante!» E invece mi allontanai, portando con me per sempre, archetipo di una felicità inaccessibile ai ragazzi della mia specie, in forza di leggi naturali impossibili da violare, l'immagine di una fanciulla dai capelli rossi, la pelle cosparsa di effelidi rosa, con in mano una vanga, e che rideva, lasciando scorrere su di me lunghi sguardi sornioni e inespressivi. E già l'incanto di cui il suo nome aveva incensato quel luogo sotto gli spini rosa, dove lei e io insieme l'avevamo sentito pronunciare, investiva, avvolgeva, profumava tutto ciò che le stava intorno, i suoi nonni che i miei avevano avuto l'ineffabile fortuna di conoscere, la sublime professione di agente di cambio, il doloroso quartiere degli Champs-Élysées, dove lei abitava, a Parigi. «Léonie», disse il nonno di ritorno a casa, «avrei voluto che tu fossi con noi poco fa. Non avresti riconosciuto Tansonville. Se avessi osato, ti avrei colto un ramo di quegli spini rosa che ti piacciono tanto». Il nonno raccontò così la nostra passeggiata a zia Léonie, un po' per distrarla e un po' perché non avevamo perso ogni speranza di convincerla a uscire. Un tempo aveva molto amato quella tenuta, e del resto le visite di Swan erano state le ultime che aveva ricevuto quando aveva già chiuso la porta a tutti quanti. E come ora, quando Swan veniva a chiedere sue notizie, era la sola persona di casa nostra che lui chiedesse ancora di vedere, lei gli faceva rispondere che era stanca, ma che la prossima volta l'avrebbe ricevuto. Anche quella sera disse: «Sì, un giorno che farà bel tempo, voglio andare in carrozza fino all'ingresso del parco». Ed era sincera, le sarebbe piaciuto rivedere Swan e Tansonville, ma il desiderio che ne aveva era sufficiente a esaurire quel po' di forze che le restavano. Realizzarlo era fuori della loro portata. A volte il bel tempo le ridava un po' di energia, si alzava, si vestiva, ma la stanchezza si faceva subito sentire prima che fosse passata nell'altra stanza e reclamava il suo letto. Era cominciata per lei, soltanto prima di quanto avviene di solito, la grande rinuncia della vecchiaia che si prepara alla morte, si avvolge nella propria crisalide e che si può osservare alla fine di esistenze molto lunghe, anche tra vecchi innamorati che si sono molto amati, tra amici uniti dai legami più puri e che a partire da un certo anno cessano di affrontare il viaggio o l'uscita di casa necessaria per vedersi, cessano di scriversi e sanno che non comunicheranno più in questo mondo. La zia doveva sapere molto bene che non avrebbe più rivisto Swan, che non sarebbe più uscita di casa, ma quella reclusione definitiva le era resa forse più sopportabile proprio in ragione del fatto che, secondo noi, avrebbe dovuto fargliela apparire più dolorosa, e cioè che le era imposta dal venir meno, che ogni giorno poteva constatare lei stessa, delle sue forze, e che rendendole ogni azione e ogni movimento una fatica se non una sofferenza, dava all'inazione, all'isolamento, al silenzio, la dolcezza riparatrice e benedetta del riposo. La zia non andò a vedere la siepe di spini rosa, ma ogni momento io chiedevo ai miei se ci sarebbe andata, se un tempo andasse spesso a Thomsonville, e cercavo di fargli parlare dei genitori e dei nonni di Mademoiselle Swann, che a me apparivano grandi come dei. Quel nome, divenuto per me quasi mitologico, Swann, quando parlavo con i miei genitori, smaniavo dal bisogno di sentirglielo dire. Non osavo pronunciarlo io stesso, ma li trascinavo su argomenti che toccavano Gilberte e la sua famiglia, che la riguardavano, in cui non mi sentissi esiliato troppo lontano da lei. E costringevo all'improvviso mio padre, fingendo per esempio di credere che l'incarico ricoperto dal nonno fosse già appartenuto prima di lui alla nostra famiglia, o che la siepe di spini rosa che la zia Leonie voleva vedere si trovasse su un terreno comunale, a rettificare la mia asserzione, a dirmi, quasi mio malgrado, come di sua iniziativa, ma no, era il padre di Swann che aveva quell'incarico, la siepe fa parte del parco di Swann. Allora ero costretto a riprendere fiato, tanto quel nome, posandosi dove era sempre scritto dentro di me, mi soffocava col suo fardello, e nel momento in cui lo sentivo mi sembrava più colmo di qualsiasi altro, perché era gravato di tutte le volte che in precedenza l'avevo mentalmente pronunciato. Mi dava un piacere che mi imbarazzava di aver osato pretendere dai miei. Era un piacere così grande che doveva certo essere costato un grande sforzo da parte loro dovermelo procurare senza compenso, visto che non era un piacere destinato a loro. Così, per discrezione, cambiavo discorso, e anche per scrupolo. Tutte le singolari seduzioni che associavo a quel nome, Swann, le ritrovavo ogni volta che veniva pronunciato. Allora, tutto a un tratto, mi pareva impossibile che i miei non le potessero avvertire. Mi pareva che condividessero il mio punto di vista, che vedessero a loro volta, assolvessero, sposassero i miei sogni. E mi sentivo infelice, come se li avessi vinti e corrotti.